era a posto un sciaffumaiola, insomma. A popolare, bisogna picare, sì. A posto, ma c'è questa gattaramina e lei, mi sa con maiola che avevo fatto, che si stufa, no? Devo c'è tutto. È chiaro che sono braccio, sono capita, mi fa che la male per il zero, a posto di zellare, a posto c'è gattaramina, questo prodotto liquido, posso dar razzo, capito? Mi fai la mano ancora un po' che devo fare il suo braccio, capito? Però ora non affogano, si chiappa, ma non andrà lungo, mi fin dopo tranquillo e pacifico questo lì. Si sta bene un mattissi, dai. Va bene, ma deve essere io infiammato verso di lui, ma ha un socchetto che pare che papà ma sei tu si trova. Con questo dolore di casa sono malo, se ovvia, è di qualche cosa. Ma da sul passato come non me la metto qui come ti dico questo dolore tu lì, però fai ieri la bisogna ancora, però non sui rompicato come ti cuto di prima, Maria Santissima mia Tonio, Santa Antonio, può carinare, in cui a che mesi mesi. Sono delle pommata, tira a lei via sì uno vago, però poi cominciare a toccettare. Mi ricordo che su fianco padre se va che viene sulla cella. Posso immaginare che. Vabbè, posso immaginare. Poi, olio di gomito! Ha ragione Curcio, cazzo, che ne comincia a pensare in età, no? Che la vecchiaia è carogna. E allora, tanto mi, e c'ha primo, e ti fa che male una cosa. La maglia ti fa che male un'altra cosa, e te che fai, e come cominciano a decidere, a fora. Cazzo, ma tutto come non mi scende questo cazzo d'allora? Se non mi scende tutto come? Ma io non che devi dare questo menù, in quest'anca. Andiamo a direttare, cazzo, e mi dolete. Dico, perché se mi dolete, se mi dolete, oh. Bisogna resistere, Tonì, bisogna resistere, agguantare. Agguanta, Tonì, già basta. Una viene, una via male, se pandende. Candela Tonì, buongiorno. Se Candela Tonì, non ha più dentro, non ha più dolore, che? È vero pure, viene. Voglio che la mia ciampella, che? Non è nulla. Non è questo il suo problema, lì che c'è il suo problema, di piego, no? Ma dove sta un'anca? Se ha già possibile che chi incontri un calicuno, se ne li sa cansatela, Tonì, anda che su cinese mi. Questo pure io, è vero. Vai, Gio Maria. Ciao, buongiorno. Ah, poi per il serio, il coro, il suo capo, ma di che deve essere, stai fai che cazzo, sta la gran carriera, ma qua, ciao, ma salvo. A mie? Non mi fu dubbio. Con tutto ci trovai che campo fu in coro. Sono entrato in radio di riserva nel cunta e poi che il sito fuoriscende, figura non vado. Magari, Gio Maria. Quella battuta, cari. Alle canto da una sola nelle per senza voler andare. Ma mi non so se manco 20 o 30 anni andando senza andare. Pure a Santo Maurizio. Alle canto a bocca a braffata. Andre mia, mi pare che andiamo da salveccia con voi. Andiamo, magari da voi bisogna contrattempo, se non bisogna mai andato, anno, è una trentina anni sto che non vanno, né a Corse né a Santo Maurizio, si può immaginare. Ho da una cosa stata, sempre impegnato per cui non ho beccato un possibile. Ah, lì che ti ha posto a mani frittate, ma no, oh, io vieni mi dai ragazzi, cazzo. Però si impegna sul troppo per cui non mi sono mai andato, ecco, tu si vuoi già, riprendi. Buongiorno di nuovo. Suo frate, ma lì si dite, già le spiego che voi già fece, se questa cosa senti che case, il ciuffano a muro, arrivi da suo monte il ciuffano, la mia mano il ciuffano, dove sinceramente io non ho visto voi che pensano di cosa che pensano di vai a terrare l'inchiccia che lui lascia verde con quanto è dura la vita ora non si canava si divertire bella cosa avanti Tonì e noi siamo in festa ma con la tienda poi cos'è il suo problema Tonì cos'è il suo problema io ripeto c'ha pimpini o chi non... Boh, non lo so, noi come cane mi girava. Avanti, Giomè. Aspetta, beh, è chiaro che lei no, per esempio, no, le sue attitudini, insomma, due passo dai domo, eppure so un toleano so chi non bando, no, non mi piace, no, no, prima dovete andare io, a tutti i luoghi, a ogni luogo andare io. Mi dà la famiglia è pazzia, se c'è come lo barre mio, non lo manda più, se no, oh, aspetta, se ne sappi più padre per cui, no, come ci vai con i nomi? Stava chiusi in un bando, il nome a te si è fatto caio. Per cui la sauna che è la gana mandare e la gana che deve vestire. E stanno già, te le racconta. La solita cosa. Solita cosa, già. Sempre correndo da una tassata, chi se ne devono salvare. Chi se ne devono salvare. E se vuole fare il muso di chiedere la busta per tazza. E te ne ha tutto lì. E tu prima di chiacchi qua che abbiamo preso una frecciata, capire? O io, abbiamo di pezzo, questo qua con il pezzo, l'ho capito qua. Sì, complicato non bene, eh. Il problema è che su io fino a mezzo la faccio, no? E che si svinari, devi stare attento. Voi da voi, si inventi se chi non paga nessuno casino, e che ne cominciano a essere vinti 30.000 euro, so. Ti vogliono subito a quella terra, Tony. Già lì come te si piantistica, subito, subito ti vogliono a quella terra. E io non so di abbaiare, di bere sorroio, da tempo di io non so di bere sorroio. Troppo gente va da risolvere la fregatura, sa. Sì, Tony, una cosa di raro. Io ho fatto vai, inizio lavori, avanzamento lavori e fine lavori. Si comincia, se non comincia mai non finì mai, non ha rodeo. Se non comincia la molla di nari, intendo. Ah, subito di piano andate per tutto. Come c'è qualcuno che fa che è su bello bello e canta, sa prima due, sa primo mese si canta, poi per la capellina la rovinata. E tu non hai fatto una cosa, Tony, senza problema, mi primo. E lì non vai, siccome ti già lì che si canta sul primato dai singola persona, e non andate in avanti, mi dimmi da fare. E magari la faccio male un attimo. La per chiamare, come ti è successo, quella mesa appena mi ha pagato tempo fa che in cucciato mi ha un movimentista che pensava che non aveva gli appese, con l'altro ti si è andato. No, no, ma allora, nel nome non può entrare nessuno, non si è compreso, se uno l'ha in cucina, se uno l'ha in cucina, che deve firmare isso, non può entrare nessun altro, non può sostituire il tecnico, impossibile. Bisogna questo che lo pagano, vai che morì! Se ne sta approfittando per venire gente, dai, chiudo, magari ci sentiamo fra una mezz'oretta. Ok, ciao per adesso, ciao anche a Gianni, vai, riprendi già. È positivo, buon proseguimento. Buon proseguimento. Come andiamo a finire, ragazzi? Se ne si chiudi, amo già fatto, sapete, sono lieto. Ma, bene, non mi preoccupo, vedete? Bene o male, non esiste questo problema. Devi chiedere dei seguiti, cioè, adesso fatto sento il dolore mai, io. Tony, deve ne pagare. Si comincia a pagare, cuccio di Lugaranto. Ah, se non pagano da voi, giusto, è altro problema. Io sono capace di mollare su un morsetto se tengo il suo figlio su una uno, metto lì. Come ti ha fatto fare il culo e tutto? Compreso. Proprio tenendo poi la una a una, via, si pagano. Ah, no, ma tra te, non sono fatto guarda. No, a parte che non più non è manco, non più non è capoite, a da voi siete in casino veramente, e voi siete niente un po' la curva, e gai, non più non è manco. Un medico se non l'ha mai fatto, non la fai mai, a parte che devo anticipare sui nari, cioè proprio sul senso lì, inizia lavori, poi prima devi cominciare a esaminare, mi ha fatto dare un tanto, poi a metà definita mi ha fatto dare esatto quello, poi se avanzamento lavori un tanto e poi ha finito, un minuto piano casa voi, quindi sui nari chiaro che non tende, eh? Cioè non è che una cosa, a sapere non sono di potere, ma chi sono mito? Ebbe così, ebbe. Oggi un attimo che mi hanno chiamato, gli avevo subito. Ciao, non va. campi di nuovo. Oh, gli campi